Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci pronti per un altro pieno di musica qui al Soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti voi e buona domenica da Gegè Telesforo e da Francesco Tromba, oggi un po' assonnato. Sì, diciamo che sto facendo le ore piccole perché sto leggendo un libro di David Byrne, che era il leader dei Talking Heads, in cui lui dice di aver visto James Brown dal vivo. Pure io, tante volte. Però lì ha capito, diciamo, quanto lui fosse piccolo rispetto a James Brown, quasi stava per smettere di seguire il sogno di diventare un musicista. E perché ci hai portato a questa tua riflessione mattutina? Per giustificare le tue occhiaie? Sono... Sì, esatto. Va bene, comunque sempre meglio perdere tempo con James Brown e le buone letture che fare altro di notte, ovviamente. No? Dipende dai momenti. Bene, diamo il via alla musica con questo nuovo appuntamento del Soundcheck, puntata numero 241. Tra l'altro abbiamo ancora 4 weekend a nostra disposizione per suonarvele, in senso buono naturalmente, per poi prendere una pausa con la radio, ma naturalmente dedicarci alla musica, perché personalmente continuerò a farla attivamente sui palcoscenici in giro per l'Italia e per il mondo con la band, e quindi resteremo in contatto con musica, musicisti e strumenti. Sì, ci prepariamo alla versione estiva. Alla versione estiva, sì, non so se ci sarà una versione estiva o se verranno messe in onda delle repliche. Comunque abbiamo suonato tanta musica che celebriamo anche con il Soundcheck Airplay Music Award, una sorta di piccolo premio che vogliamo assegnare con una nostra personale giuria, 10 esperti a nostra disposizione, e i voti del pubblico che arriveranno all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, attraverso Twitter, attraverso le nostre pagine Facebook, e naturalmente nelle pagine Facebook troverete gli artisti in nomination nelle varie categorie. Sì, li metterò sempre in testa nella pagina in modo da... Come sta andando? Bene, ci abbiamo tanti riscontri. C'è questa lotta fra Kendrick Lamar e D'Angelo per la black music nell'R&B. Sì. Staremo a vedere. Tra l'altro lo aspettiamo D'Angelo, perché lo abbiamo già detto, il 6 luglio approderà a Roma con una band fortissima, l'Auditorium un Parco della Musica, e questo tanto per anticipare anche gli squilli di tromba, ovvero i concerti più interessanti da seguire la prossima settimana. C'è qualcosa da vedere? Sì, ci sono un po' di anteprime, anche poi parleremo dei festival, anche perché avvicinandosi l'estate magari uno può coniugare i viaggi con la buona musica. Sì, bisogna mettere da parte i soldini per ascoltare musica e magari divertirsi in giro in bei posti. Sì. Allora, diamo il via all'appuntamento di oggi. Ieri tanta musica nuova, tante novità, lo faremo anche oggi, e vorrei partire con una ragazzina, visto non ho detto signorina, mi hai rimproverato ieri quando ho definito un'artista signorina. Sì, non si dice più. Ragazzina va bene? No. Una ragazza, normale, eccola qui, una bella ragazza bionda, devo dire che a vederla nelle fotografie sembrerebbe quasi più... che so, una commercialista, non un artista. Sì, però c'è un po' anche la faccia d'attrice, faccia d'artista, però è un'artista vera, non americana, non è inglese, non è norvegese, di dov'è? È belga, e quindi vi stiamo parlando della bravissima Sela Siu, che si è fatta notare negli ultimi anni e discograficamente nel suo paese è una best seller, addirittura con il primo album ha venduto 750.000 copie, un grande risultato. Sì, in tutta Europa venduto più di 750.000. E ho notato che comunque l'ultimo album intitolato Reason, esatto, è in vetta alle classifiche discografiche. Sì, è uscito da poco. Per l'R&B. Sì, sì. E il che non è facile. Perché è un'artista belga slavata, bionda. E infatti è diciamo quello che un po' gli ha posto dei limiti, magari il fatto che non sia nera come altri suoi colleghi. può essere in alcuni casi un modo di discredito, cioè non è del tutto credibile che una... Però poi alla fine i conti si fanno con la musica. Eh sì, alla fine allora, vende. Questa artista appassionata di R&B, di soul, che però anche lei nelle vene ha la Giamaica, perché è un'appassionata di ragamuffin. Sì, perché anche un suo brano, il brano della sua consacrazione a livello proprio discografico era Ragamuffin, che ha venduto tantissime copie, l'ha portata a suonare in tutto il mondo anche. Allora, si intitola Reason il nuovo album di Sela Siu, il brano è Gotta Make It Last, che tra l'altro è bonus track dell'album, quindi non sì, è il singolo proprio, è nella deluxe edition e ci dobbiamo sempre distinguere. Sì. La voce della ragazza belga Sela Siu qui al soundcheck di Radio 24. Mi guardi sempre storto perché io dico ragazza, signorina, sono un po' antico. Sì, vero? Perché se parti con signorina ti fulmino. Sela Siu al soundcheck, ma c'è una richiesta, quindi prima di annunciare i concerti interessanti per la prossima settimana andrei subito con una richiesta importante, perché abbiamo suonato il brano ieri, brano che anticipa il nuovo album intitolato Blood con protagonista la bravissima Lian La Havas. Il brano si intitola Unstoppable. Lian La Havas ci piace un sacco, anche fisicamente è bravissima. Bravissima, sangue misto nelle sue vene per questa ragazza che si è fatta notare ormai da qualche anno, ma credo che avrà la consacrazione discografica con questo Blood. Tra l'altro è una nostra anteprima, perché l'album sarà pubblicato il 21 di luglio. Il 31 di luglio, proprio in anticipo di due mesi siamo. Sì, siamo avanti. Eccola qui, Lian La Havas arriva al soundcheck a grande richiesta con Unstoppable. Stronger, no, it's taking the time to heal. We'll be unstoppable. Don't know what I did it for. I needed to know that it was always real. Soundcheck. Il suono della musica. Sentono le sue origini africane, infatti arriva dallo Zimbabwe, esca con Shades of Blue qui al soundcheck di Radio 24. Ieri tante novità, anche oggi tantissime novità, e in questa parte del nostro soundcheck puntiamo i nostri riflettori su due cantanti africane della nuova generazione, ma credo tutte e due residenti a Londra. Sì, soprattutto esca ha ricevuto anche l'endorsement da parte di Jamie Callum, che ha detto del suo primo EP che sarebbe stato uno dei beat più suonati nel 2013. Infatti mi è piaciuto molto Shades of Blue, che abbiamo presentato agli appassionati di musica di Radio 24, e prima di presentarvi il talento di Nika, che invece è una artista nigeriana, anche lei residente a Londra, direi comunque di annunciare alcuni concerti che si possono vedere la prossima settimana nel nostro paese. Sì, assolutamente da non perdere il 2 giugno, la giornata finale del Torino Jazz Festival, di cui avevamo avevamo già parlato, quindi andate direttamente proprio in piazza, a Piazza San Carlo, dalle 4 del pomeriggio fino a... c'è una lunga maratona di jazz. Sì, fino a sera. Chi ci sarà, lo sai? Ci saranno, si partirà con i Trio Bob, il Trio Bob, con Faso, Christian Meyer. Sì, li salutiamo tutti. Tese. Poi ci sarà la Juilliard Jazz School a Torino. Eh sì, la big band della Juilliard School of Music di New York, si sono trasferiti in blocco lì a Torino per fare anche delle masterclass con i docenti. Sì, e come ospite ci sarà anche Emanuele Cisi. Bravissimo, che sta avendo un ottimo successo, il nostro Emanuele, proprio a New York negli ultimi anni. Alle 18.30 ci sarà John DeLeo, poi seguito da Francesco Berzatti e il Tinissima Quartet con l'omaggio a Monk e Monk and Roll. Poi Nicky Nicolai e Stefano Di Battista alle 9, e per chiudere l'Original Blues Brothers Band, che chiuderà il... Ma proprio quella originale? Sì, sì. Non ci saranno The Necred, John Belushi è scomparso, The Necred non c'è, però The Original Blues Brothers per chiudere proprio il Torino Jazz Festival. Esatto. Allora, che altro c'è da vedere? Questa sera, se fate in tempo, ci sarà Omar Sosa al Blue Note di Milano e sempre questa sera Luca Quino presenterà il suo nuovo lavoro all'Auditorium Parco della Musica. E noi lo abbiamo già fatto proprio con Luca, album dedicato alla musica dei Doors. Poi il martedì 2 giugno Ron Carter, che prima era al Torino Jazz Festival, si sposterà a Milano al Blue Note. Eccolo qui, Ron Carter al Blue Note di Milano, e arriva qui al soundcheck invece il suono di Nika, lo dicevamo, artista anche lei giovanissima, nigeriana, appassionata di soul, hip hop, attrice, autrice che vive a Londra, fa la sua musica con soddisfazione e noi ve la presentiamo. Il brano si intitola Babylon, Nika al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. E nella puntata di ieri vi abbiamo presentato il suono dei Brass Tracks, che tornano al soundcheck di oggi. Questi ragazzi che arrivano da Brooklyn, una ottima sezione fiati, qui prodotti dal signor Lido, producer olandese che realizza per loro questa versione di 4-5 Seconds. Brass Tracks al soundcheck di Radio 24, un'altra puntata carica di novità, di suoni nuovi e di nuovi artisti, e ve li stiamo annunciando. Però prima di presentarvi i Quasimodo, sì, che non è una band così, poesia. Di poesia, no. Quasimodo è una super band, come dire, afro-latin, ecco. Fortissimo. Vabbè, ma ne parliamo fra pochissimo. Sì, direi di annunciare i prossimi concerti. C'è ancora qualcosa che possiamo seguire in Italia la prossima settimana? Ma partiamo coi festival invece, no? Quello che vuoi. Sì. Sei tu il responsabile della rubrica. Sì. Squilli di tromba. Ci sono dei festival molto interessanti, eh? Bisogna anche organizzarsi con i viaggi da fare per andare a vedere questa musica e ascoltare questa musica. Va bene. Ad esempio, allora... il festival di Locorotondo, il Locus Festival, potrete coniugare sia il mare bello del Salento, della parte della Puglia, con dell'ottima musica anche gratis. E dell'ottimo vino, sì, no? Perché lo sai, il vino di Locorotondo è famoso in tutto il mondo. Sì, e senza spendere tanti soldi potrete anche ascoltare dell'ottima musica. Quando però? Il 24 di luglio. Addirittura! Bisogna organizzarsi, magari poi finiscono le case, non si sa dove stare lì, no? Vabbè. Il 24 di luglio Bilal aprirà il Locus Festival, ingresso gratuito in Piazza Aldo Moro. Si continuerà il 25 di luglio con De La Soul, questo è un evento a pagamento però. Il 26 di luglio invece sempre a Piazza Aldo Moro Robert Grasper in trio, anche qui ingresso gratuito, quindi un vincitore di Grammy gratis. Non è male. E tra l'altro vedrai che faranno anche qualcosa insieme Glasper con gli Experiment e Bilal. In trio Glasper. Sì, in trio. Col nuovo trio. Vedrai che Bilal si aggregherà e faranno una jam sicuramente. Sì, nuovo si album. Un giorno, sì, sta arrivando il nuovo album di Robert Glasper. Quindi un bellissimo festival. Sì, è il 2 di agosto, George Clinton con i Parliament Funkadelic. Porca miseria, un concerto super funk. Attenzione a George Clinton, lo dico agli organizzatori del loco festival, Loco Rotondo, come si chiama il festival? Locus Festival. Locus Festival, lo dico attenzione perché George Clinton, che ha vissuto proprio l'epopea degli anni 70, si porta dietro un po' quel tipo di retaggio, quindi quando va negli alberghi qualche ricordino lo lascia. Di tu che la genere? La sai la storia? Non la so. La storia. Beh, in un albergo famoso di Perugia, durante un Bria Jazz di qualche anno fa, ha lasciato proprio escrementi sparsi per la stanza. Lo dico così, tanto per dire qualcosa. Va bene, George Clinton sarà anche a Roma, all'Eutropia Festival, l'1 di agosto. Ecco, quindi avvisiamo pure gli amici dell'Eutropia Festival. Attenzione a George Clinton. Bene, allora, che stavamo dicendo? Vabbè, annunciamo dopo i prossimi concerti, magari quelli in giro per l'Europa. Eccoli qui i Quasimodo, una super band. Io adesso mi levo la cuffia e mi metto a ballare alla grande, anche se come ballerino di salsa sono una vera porcheria. Io sono proprio scarsissimo. Fammi vedere, vai. Soundcheck, il suono della musica. Il groove di un maestro del genere come Lil John Roberts. Conoscete questo batterista? È uno dei miei preferiti. Ha lavorato in centinaia di dischi importanti che hanno fatto la storia della black music degli ultimi anni. Lil John Roberts si è chiuso in studio di registrazione chiamando una bella ragazza dotata di swing e di grandissimo senso ritmico, la rapper, ovvero Sarok di MC, fortissima. Non è una signorina, ma è una sorella. Sister Sarok di MC al soundcheck con Lil John Roberts per questo brano realizzato con la partecipazione del producer DJ Soul Messiah. Il brano era Get Right, ma uno si può chiamare Messiah. Evidentemente ci sono dei nuovi messia nella musica. Può essere, è proprio così. Allora, noi siamo in conclusione, mio caro Francesco, però ancora qualche minuto a nostra disposizione per annunciare velocemente i concerti più importanti della prossima settimana in giro per l'Europa. Non della prossima settimana, ma continuiamo con i festival. Ai festival, sì. Quindi la prossima settimana musica zero. No, vabbè, niente di eccezionale. Niente di eccezionale. Allora, vediamo dove possiamo andare. Allora, prima stavamo parlando dell'Eutropia Festival, continuiamo con l'Eutropia Festival. Va bene. A Roma. Ci sarà Patti Smith. Quando però? 14... Mi devi dire le date, devi essere preciso. Un attimo, dammi il tempo. 14 di giugno, Patti Smith riporta in tournée Horses, il disco pietra miliare della sua carriera. Patti Smith. Esatto. Vabbè. E poi il Jesturzend Neubauten, 25 di giugno, sempre Eutropia. Il 3 di luglio i Fratellis, The Fratellis, una band scozzese. Non conosco, mi dispiace. Neca sarà il 21 di luglio a Eutropia a Roma. e questa è da non perdere, l'abbiamo ascoltata sì. prima e anche nelle sì. altre volte. Goran Bregovic il 14 di luglio, se vi va un po' di musica balcanica. The Cooks il 23 di luglio, sempre Eutropia a Roma. E poi l'altro festival di riferimento a Roma è il Festival di Villada, dove potrete ascoltare il 27 di giugno José González, l'8 di luglio Saint Vincent, il 25 luglio Ideus e il 7 di luglio Xavier Rad insieme a The United Nations. Vabbè, però insomma c'è un sito di riferimento di Eutropia? Sì, è eutropiafestival.it. .it, e quindi lì non si può sbagliare. Sì, è anche villada.org. Senti, qualche concerto all'estero, qualche festival importante che poi andiamo, eh? Dal 3 al 5 di luglio a Brighton. A Brighton, bene. A Love Supreme Festival, dove ci saranno Chaka Khan, i Bad Plus insieme a Joshua Redman, Rebecca Ferguson, ma ci saranno anche Van Morrison, Hiatus Coyote, Gerard Lawson, Taylor McFerrin. Tutti a Brighton. Sì, sì, assolutamente. Poi c'è anche un festival in, a Pori, in Finlandia, se avete voglia di andare a vedere. Di anche, fresco. Sì, a vedere che fa d'estate Babbo Natale. No? Ci saranno Emily Sandé, Kylie Minogue, anche Jarrod Lawson di nuovo. Anche questo festival è a luglio, quindi potete far coincidere le vacanze, le ferie con della buona musica anche in questo caso. Ci saranno anche l'orchestra Buena Vista Social Club, questi i reduci, vecchietti, i sopravvissuti, Wayne Shorter Quartet, Stanley Clark Band, anche qui Hiatus Coyote. Quindi assolutamente un festival da non perdere in Finlandia. Anche in Finlandia. Senti, dobbiamo fermarci, ci sono altri concerti? Ce ne sono tanti e li diamo poi nelle prossime puntate. Tanto tu stai anticipando cose che succederanno fra un paio di mesi. Eh sì, perché bisogna organizzarsi. È perché siamo sempre in anticipo. Organizzazione è la prima cosa. Allora, chiudiamo questa prima parte, poi vi lasciamo con l'informazione di Radio 24. Noi ci risentiamo quando? Più tardi, alle 19:15 parleremo di batteria. Con chi? Con Lucrezio De Seta, ottimo insegnante di batteria, ha fatto anche un disco nuovo, non male. Ah, ascoltiamo. Ne parliamo con lui. Abdullah Ibrahim arriva con una versione remix di un suo successo intitolato Calypso Minor qui al Soundcheck. Sai chi era Abdullah Ibrahim, il nome? Sì, un pianista. No? Pianista, il nome vero? No. Dollar Brand. Ah. Questa volta non eri preparato. No, bocciato. Soundcheck, il suono della musica di DJ Telesforo. Eccoci, buonasera a tutti voi, questo è sempre il Soundcheck, seconda parte di questa domenica. Buonasera da DJ Telesforo, ancora una volta buonasera al nostro Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Sei pronto? Questa sera ti faccio fare una bellissima lezione di ritmo e di batteria. Sì, lo abbiamo annunciato, nostro ospite per questa seconda parte di oggi, un maestro di batteria, un uomo che vive di batteria 24 ore al giorno, 24/24. Ti piace? Bah, non suona bene. Non suona bene, però è così, perché quest'uomo che fa il batterista di professione, docente di batteria, organizza ormai da anni un festival chiamato Batterica, che dà la possibilità ai più grandi batteristi italiani e del mondo di esibirsi e di mettere in evidenza i loro muscoli attraverso le bacchette. Anche titolare di una scuola di batteria che si chiama Batteria School. Ecco, facilissimo. Batteria School, vi sto parlando del maestro Lucrezio De Seta. Ciao Lucrezio, buonasera e benvenuto. Ciao Gigi, ciao Francesco, grazie a tutti quanti, un bel saluto insomma a tutti quanti gli ascoltatori. A tutti gli appassionati di ritmo. Sì, diciamo a tutti gli appassionati di vita, perché il ritmo comunque è la base della vita poi alla fine. Bravo, comunque... questa è una cosa che dico anch'io quando faccio le masterclass, no? Perché il ritmo è connesso alla pulsazione del nostro cuore. Assolutamente, anche a tutto quanto quello che riguarda proprio i movimenti dell'universo, se vediamo, no? Cioè, tutti quanti gli eventi hanno sempre qualcosa di ciclico, e anche il motivo per cui, secondo me, noi esseri umani, come tanti esseri viventi, insomma, siamo sensibili al ritmo e lo riconosciamo come tale. Senti Lucrezio, noi come spesso facciamo, tiriamo giù una scheda personale. Il nostro Francesco Tromba ha tirato giù i tratti fondamentali della tua carriera. Inizio a tremare, mi auguro, e quindi Francesco, puoi presentarci Lucrezio De Seta. Sì, allora, Lucrezio De Seta inizia a studiare la batteria a 12 anni, a 16 entra nell'orchestra della scuola tedesca di Roma, dove inizia a suonare per dei musical e per delle rappresentazioni teatrali in generale, e intanto prende parte anche a diverse masterclass per perfezionarsi, masterclass tenute da Vinnie Colaiuta, da Tony Oxley o da Trilok Gurtu. Dal 1991 in poi inizia a collaborare con grandi nomi del rock, come ad esempio la FM, con la quale va in tour, passando per il jazz con Tom Harrell, Stefano Di Battista, Tony Scott e anche Omar Sosa, arrivando al pop anche con Roy Paci o Niccolò Fabi, Luca Barbarossa, Alex Britti, Angun e tantissimi altri. È molto attivo anche come insegnante, avendo creato, come dicevamo prima, la scuola Batteria School, fondata nel 2010 a Roma, ed è anche compositore di commercial, ovvero la musica degli spot pubblicitari. È il fondatore del Maharia Trio e dell'etichetta discografica Edeish Production, con la quale ha prodotto anche il suo ultimo disco, che si chiama Moving On. Ecco qui, ti ci ritrovi? Accidenti, a parte la pronuncia è tutto perfetto. La pronuncia di cosa? Allora, Headache Production, va bene, e il trio, appunto, sono queste cose che quando uno sceglie un nome per un gruppo no, è sempre una cosa, poi dici, lo capiranno, cioè Maiaria, perché è un termine siciliano in realtà. Allora, la cosa che mi ha colpito, io comunque ti conosco come professionista da tanto tempo, la cosa che mi piace è che sei un musicista versatile, non sei un integralista, perché il ritmo è bello tutto, è bello prestare il proprio talento a situazioni musicali molto diverse, però molto spesso non è così. Ecco, questa è un po' la visione internazionale della musica. Da noi, ecco, uno si specializza nel pop, nel jazz, è un po' il nostro limite o no? Guarda, può essere un limite come può essere una caratteristica positiva. In realtà l'importante è poi essere, secondo me, essere felici in quello che si fa e non andare, diciamo così, a sfrogoliare quello che in realtà non fa parte delle proprie tendenze, delle proprie inclinazioni. È logico che per il mio punto di vista, che però rimane un punto di vista personale, quindi insomma non è che debba essere per forza preso come esempio generale, a me piace considerare la musica appunto come un unicum, come un corpo unico, fatto di vari colori, varie sfaccettature, quindi varie particolarità, e quindi purtroppo da quando sono bambino ho iniziato ad appassionarmi appunto dal punk dei fine anni 70, passando poi piano piano verso il rock sinfonico, poi le prime cose di jazz, la fusion, che più dal jazz ci sono arrivato tramite la fusion, e non mi vergogno di dire questo, anche se molti talebani. È un percorso che si fa. Allora, qui voglio mettere a dura prova le tue orecchie. Accidenti. E vediamo se riconosci se la batteria utilizzata da questo signore, che si chiama Daniel Crawford, che è un pianista, un producer americano, che ha realizzato la sua personale versione remix di Happy di Pharrell Williams. Voglio vedere se riconosci la batteria, se è uno strumento programmato o se è stato coinvolto un musicista in carne e ossa. Happy con Daniel Crawford Forth al soundcheck. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you feel like happiness is the truth. Allora, Lucrezio, che mi dici? Era un batterista vero qui in questa versione di Happy per Daniel Crawford o una programmazione? Guarda, è dura a dire, perché il fraseggio, la fantasia ritmica, diciamo così, le variazioni, eccetera, suggeriscono una mente umana e creativa dietro questi e quella suoni. C'è stata sicuramente. Bisogna vedere se ha utilizzato le bacchette oppure uno strumento digitale. Bravissimo, oppure anche una tastiera, perché comunque certo. ci sono anche musicisti bravissimi nel programmare batterie appunto semplicemente con una tastiera MIDI o anche con controller no particolari. Io voto Ma staremo a vedere. Allora, invece tu la batteria l'hai suonata sul serio per la realizzazione di questo album nuovo intitolato Moving On. Hai scritto anche alcuni brani e ti sei divertito con dei bravissimi musicisti. Ce li vuoi presentare? Assolutamente sì, dei musicisti fantastici che mi accompagnano da un po' di tempo, un annetto e mezzo insomma, in questa avventura, che sono Ettore Carucci al pianoforte, che saluto perché è un mio amico bravissimo, Leonardo De Rosa al contrabbasso e Gianni De Nitto al sax alto. Allora presentiamo proprio la traccia di apertura di questo album intitolato, lo ripeto, Moving On, per Lucrezio De Seta, nostro ospite qui al Soundcheck. Il brano si intitola Smatter e credo sia una composizione di Kenny Wheeler. Esattamente, giusto? Soundcheck, il suono della musica. Nuovo in contatto con il Groove Master Studio di Radio 24 per questa puntata del Soundcheck con nostro ospite questa sera, il maestro Lucrezio De Seta. Quindi parliamo naturalmente di batteria e di ritmo. Il brano che avete ascoltato era U-Bahn, che troverete nel nuovo album del pianista Bill Lawrence intitolato Swift. Interessante qui come ha portato il groove un altro campione contemporaneo della batteria, che è Robert C. Wright, uno dei miei batteristi preferiti. L'ho scoperto ascoltando i dischi degli Snarky Puppy, band con la quale sia Bill Lawrence che Robert C. Wright sono in tournée. Anzi, facciamo una cosa, Francesco, tirami fuori anche il CD degli Snarky Puppy perché lo suoniamo subito dopo. Intanto, Lucrezio, allora tu sei impegnato con il tuo strumento su versanti diversi e una cosa alla quale tieni tanto è proprio questa scuola chiamata Scuola di Batteria. Sì. È una struttura che appunto che ho costruito, diciamo così, a un certo punto nel 2010, perché l'insegnamento che avevo era sempre di tipo, diciamo così, privato, insomma, basato su allievi occasionali, diciamo così. A un certo punto ho dato un po' una struttura a questa cosa, anche basandomi sulla costituzione poi formale di questo metodo, che in realtà è proprio una metodologia più che un metodo. Noi spesso si dice, appunto, si chiama metodo un libro di esercizi, ok? Quello che invece io ho così molto, molta modestia e molta tranquillità, insomma, ho messo su è una vera e propria metodologia dove si procede veramente nella conoscenza, nell'apprendimento del ritmo per fasi, per poi applicarlo alla batteria, ma senza mai riferire in modo stilistico o di linguaggio, ma parlare semplicemente proprio di possibilità espressive. Poi se tu lo vuoi fare sul jazz, sul funk, sul metal, su quello che ti pare a te, lo applichi e lo approfondisci magari appunto attraverso soprattutto l'ascolto dei grandi maestri. Di solito solito l'approccio con la batteria quando si è ragazzini è proprio una cosa istintiva, no? Assolutamente. Si sente quasi il bisogno fisico di sfogarsi sullo strumento, ti viene regalata la prima batteria o la compri con i primi, le prime paghette, e alla fine però hai a che fare con uno strumento che va studiato, perché tecnicamente poi la batteria mette a dura prova il fisico e la testa, perché bisogna raggiungere quella che i batteristi conoscono bene, l'indipendenza motoria degli arti. E la coordinazione. E coordinazione, certo. Si va tutto quanto, diciamo così, così per campi. Sì, la batteria è la cosa bella, è appunto che si parte da un discorso quasi di, appunto, di sfogo proprio emotivo, per poi arrivare dopo tanti anni, tu lo sai benissimo perché sei un ottimo batterista. Sei gentile, ma non è così. Mi ricordo le tue trasmissioni. No, mi diverto ancora, ma mai in pubblico, perché ho rispetto per il pubblico e per i batteristi. Vabbè, allora quando tu appunto ti esibisci col tuo gruppo vocalmente, si sente che hai un fondamento ritmico estremamente solido. Quindi stavamo dicendo, appunto, la batteria che nasce come un bisogno quasi di sfogo. Ancora adesso c'è chi mi dice: ammazzate, però quando suoni la batteria sfoghi, fai, eccetera. In realtà poi non è così, perché quando poi impari a conoscere la tecnica ti rendi conto che l'elemento muscolare è l'ultimo, diciamo così, di quelli che vanno diciamo. Beh, così, questo lo apprezzo molto, è quello che io dico spesso, che c'è una bella differenza fra gli strumentisti e i musicisti. Quindi te quando studi fai lo strumentista, e quando suoni fai il musicista, che significa essere a servizio della musica, quindi mettere da parte tutto quello che uno ha studiato, la tecnica, per fare solo quello che bisogna fare, giusto? Assolutamente. Allora, Lucrezio, vogliamo ascoltare un'altra traccia da Moving On? Il brano è una tua composizione. Bello, tu quando scrivi sul pianoforte, la chitarra? Sul basso. Interessante. Lucrezio De Seta qui al Soundcheck di Radio 24. Il brano, non vorrei sbagliare la pronuncia, se no mi rimproveri, Vedanta. Soundcheck, il suono della musica. Eccoli qui gli Snarky Puppy, diretti dal bassista Michael League, in compagnia della Metropole Orchestra, eccellente orchestra che si cimenta in tutti i generi e con tutti i suoni possibili. Album nuovissimo intitolato Silva, il brano era Acciafalaia, che io vorrei anche pronunciare quasi in meridionale, Acciafalaia, come una specie di imprecazione tromba. Eh sì, sarà Cosentino Stretto, no? Cosentino Stretto. Lucrezio De Seta, batterista, insegnante di batteria, nuovo album per lui, lo abbiamo detto, Moving On, lo stiamo anche presentando, ma impegnato ogni anno con l'organizzazione di un festival molto interessante, non solo per i batteristi, ma per tutte quelle persone che hanno il ritmo nel sangue. Il festival si intitola Batteri, e non so se quest'anno riuscirai a organizzarlo, perché ci sono molti direttori artistici di festival in crisi, perché non ci sono più soldi in circolazione, pare. Ah sì, ma su questo partiamo avvantaggiati, perché non abbiamo mai avuto i soldi noi, quindi. Ah bene, e questa è una gran cosa. Quindi l'importante, diciamo così, è non rimetterne troppi ogni volta che facciamo questa cosa. No. E allora, che cos'è Batterica? Batterica è un pretesto per smuovere le acque, per dare la possibilità a più persone possibili, sia addetti ai lavori che esperti, insomma, batteristi o musicisti in generale, ma soprattutto alle famiglie, a persone, appunto, diciamo così, quelle che io chiamo i civili, no? Di avvicinarsi al mondo della batteria, ma anche più in generale al mondo della della musica. Durante una giornata, come è partito il primo anno, lo facemmo al coso all'Auditorium Parco della Musica, e durante la prima edizione abbiamo avuto più di 3.500 partecipanti, insomma, di pubblico in questa manifestazione, tutta quanta gratuita. Che si tiene dove? Che si tiene a seconda degli anni di dove riusciamo ad appoggiarci, per un discorso di costi ovviamente. Abbiamo appunto fatto l'Auditorium, poi ci siamo appoggiati all'Anificio. Però a Roma? A Roma, sempre a Roma, esattamente. Perché abbiamo bisogno di tanti spazi, perché la manifestazione è in un solo giorno. E lo strumento è ingombrante. Esattamente, che poi ti spiego anche l'altro motivo. In una giornata noi riusciamo a fare appunto esposizione di strumenti, quindi con ditte che espongono strumenti, le ultime novità, eccetera, eccetera. Con i soldini che loro ci danno, noi ci paghiamo tutta quanta l'organizzazione di questa cosa. Contemporaneamente abbiamo due o tre palchi dove abbiamo clinic, masterclass dalla mattina fino alla sera, da un'altra parte dimostrazioni, quindi cose più tecniche degli strumenti, e poi nella sala concerto, che normalmente è sempre stato un bel teatro da 300-400 posti, concerti proprio full band, assolutamente proprio, come dice, tassativo che siano progetti veri e propri, e soprattutto progetti particolari che altrove è difficile. C'è un sito internet di riferimento per Batterica o anche per la scuola? www.batterica.it. Batterica col K, esattamente, batterica.it. Per la scuola batteriaschool.com, anche quello è molto diretto. Allora, grazie a Lucrezio De Seta, nostro ospite. Ve lo ricordo, il suo album si intitola Moving On, e chiudiamo questo weekend di musica proprio con una versione assolutamente up, fast, di un classico che di solito viene proposto in versione ballad. Hai capito, tromba? Capito. Hai capito? No, non si sa mai. You Don't Know What the Love Is, per Lucrezio De Seta e il suo quartetto. Noi ci risentiamo sabato prossimo, giusto? Sì, sempre alle 19:15. E la domenica? Alle 15:30 e alle 19:15. Ecco, io ti sfrutto a volte come valletto. Grazie Lucrezio, sei stato gentilissimo, in bocca al lupo per la tua attività, fai complimenti ai tuoi musicisti e ci vediamo a Batterica. Naturalmente benissimo, andrò a vedere nel sito quando ci sarà, perché benissimo, non l'abbiamo ancora detto. Esattamente. Grazie a tutti, buona settimana e buona musica da GG Telespor. Ciao ciao.